Ma hai tu trovato, mio nemico? Antract, volto irriverente, cupo come quello di un decano, Buck Mulligan si fece allora avanti gaio in veste variopinta verso il saluto dei loro sorrisi. Il mio telegramma. Stavi parlando del vertebrato gassoso, se non erro? Chiese a Steven. Panciotto color primula salutò allegramente col suo panama in aria come con un bastone da giullare. A lui danno il benvenuto. Was du verlachst wirst du noch dienen. Genia di irrisori. Fozio. Pseudo Malachia. Johann Möst. Colui che generò se stesso, mediatore lo Spirito Santo, ed egli stesso mandò se stesso riscattatore tra se stesso e gli altri, che insultato dai suoi demoni, denudato e flagellato, fu inchiodato come pipistrello a porta di granaio, affamato sulla crocetta, che si lasciò seppellire. Risorse, violò l'inferno, volò al cielo ed ivi da 19 secoli è assiso alla man dritta di se stesso, ma verrà nell'ultimo giorno a giudicare i vivi e i morti, quando tutti i vivi saranno ormai morti. Egli alza le mani, i veli cadono. Oh fiori, campane, campane, campane in coro. Sì, certo, disse il bibliotecario quacchero. Una discussione assai istruttiva. Mr. Mulligan, ci scommetterei, ha anche lui la sua teoria sul dramma e su Shakespeare. Tutti i lati della vita dovrebbero essere rappresentati. Sorrise in tutte le direzioni equamente. Buck Mulligan pensò imbarazzato. Shakespeare? Disse. Mi par d'averlo sentito nominare. Un fugace sorriso solare gli si irradiò sulle fattezze rilassate. Ma sì, disse, ricordando brillantemente. Quel tipo che scrive come Sand. Mr. Best si voltò verso di lui. Heinz la cercava, disse. L'ho incontrato. L'aspetta dopo al DBC. È andato da Gila a comprare i canti d'amore del Connacht di Hyde. Sono passato dal museo, disse Buck Mulligan. Era qui? I conterranei del bardo, rispose John Eglinton, sono forse piuttosto stanchi del nostro brillantissimo teorizzare. Mi dicono che un'attrice ha recitato Amleto per la 408ª volta ieri sera a Dublino. Vining sosteneva che il principe era una donna. Nessuno ha mai visto in lui un irlandese? Il giudice Barton, credo, sta cercando indizi. Giura, sua altezza, non sua signoria, per San Patrizio. Il più brillante di tutti è quel racconto di Wilde, disse Best alzando il suo brillante taccuino. Quel ritratto di WH, dove prova che i sonetti furono scritti da un certo Willie Hughes, uomo di tutti i colori. Per Willie Hughes, non è vero? Chiese il bibliotecario quacchero. Oh, Huey Wells, Mr. William himself, se stesso, WH. Chi sono io? Voglio dire, per Wally Yos, disse Mr. Best, emendando la sua glossa con eleganza. Naturalmente è tutto un paradosso, sapete. Yos è Yos e l'Italia, e Yos i colori. Ma è tipico il modo in cui lo sviluppa. È proprio l'essenza di Wilde, sapete, il tocco lieve. Il suo sguardo toccò i loro volti lievemente nel sorridere, biondo efebo, essenza addomesticata di Wilde. Sei maledettamente spiritoso. 3 drammi di whisky ti sei bevuto coi ducati di Dundee. Quanto speso? Oh, pochi scellini. Per una manica di giornalisti. Umore umido e secco. Spirito. Daresti i tuoi 5 spiriti per l'orgogliosa livrea della gioventù di cui egli fa pompa. Lineamenti del desiderio soddisfatto. Altri ancora ve n'ha. Prendila per me, al tempo dell'accoppiamento. Giove, manda loro una fresca stagione di fregola. Sì, tu baci insieme. Eva, nudo peccato del ventre di frumento. Un serpe l'avvinghia, zanna nel suo bacio. Credete sia solo un paradosso? Stava chiedendo il bibliotecario quacchero. L'irrisore non è mai preso sul serio quando fa più sul serio. Parlarono seriamente della serietà dell'irrisore. Il viso tornato pesante di Buck Mulligan sbirciò Steven un attimo. Poi, facendo ondeggiare la testa, si avvicinò, tirò fuori di tasca un telegramma piegato. Le sue labbra mobili leggevano, sorridendo, con rinnovato piacere. «Telegramma!» disse. «Meravigliosa ispirazione! Telegramma! Una bolla papale!» Sedette sull'angolo del banco non illuminato, leggendo gaiamente ad alta voce. «Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l'immensa responsabilità della cosa fatta. Firmato Dedalus. Da dove l'hai varato? Dal casino? No, dal College Green. Ti sei bevuto le 4 sterline?» La zia si rivolgerà al tuo padre non sostanziale. Telegramma. Malachi Mulligan, The Ship, Abbey Street Inferiore. Oh, impareggiabile mimo. Oh, pretificato istrione. Gaiamente cacciò dispaccio e busta in una tasca, ma piagnucolò in querulo dialetto. È quel che vi dico, signorino bello. Si aveva lo stomaco sottosopra, anse io, e lui l'ha mandato in quel frattempo. Si sospirava per un po' di pozione da destare un frate, dico io, e lui tutto mencio per la sgrufolata. E noi 1 ora, 2, 3 da Connery, seduti per benino ad aspettare una pinta a testa. Gemette. E noi si stava là, carino, e voi ci mandavate le vostre conglomerazioni, e noi a stare con 1 metro di lingua fuori come chierici in secca che si sveniva per una bevutina. Steven rise. Lestamente, con aria d'ammonimento, Buck Mulligan si chinò. «Quel vagabondo di Sand ti sta cercando», disse, «per assassinarti. Gli han detto che hai pisciato sulla soglia di casa sua a Glastol. È in giro in pantofole per assassinarti». «Me!» esclamò Steven. «Questo è stato il contributo tuo alla letteratura». Buck Mulligan gaudiosamente si curvò indietro, ridendo all'oscuro soffitto rigliante. «Assassinati!» Rise. Dura faccia di mascherone che guerreggiava contro di me al di sopra del nostro piatto di trippa pasticciata in Rue Saint-André-des-Arts. In parole di parole per parole, palabras, oscen con Patrizio, l'uomo fauno che gli incontrò nei boschi di Clamart e brandiva una bottiglia di vino. «C'est vendredi saint, irlandesi assassini!» La sua immagine vagando incontrò, io la mia. Ho incontrato un folle nella foresta. «Mr. Lester», disse un inserviente dalla porta semiaperta, «in cui ognuno può trovare quel che vuole. Così il signor giudice Madden, nel suo diario di Mastro William Silence, ha trovato i termini di caccia. Sì, che c'è?» «Ce l'ha uno, signore», disse l'inserviente venendo avanti e porgendo un biglietto. «Del Freeman. Vuol vedere la collezione del Kilkenny People dell'anno scorso». «Oh, certo. Questo signore?» Prese l'ansioso biglietto, guardò, non vide, posò. Non guardò, mirò, chiese, scricchiolò, chiese. «È forse... Ah, eccomi!» Piruettando una gagliarda, se ne uscì fuori. Nel corridoio acceso di luce, parlò con volubili folate di zelo, com'era suo dovere, assai equanime, assai gentile, cappello da quacchero, assai onorevole. «Questo signore? Freeman's Journal? Kilkenny People? Ma certo! Buongiorno, signore. Kilkenny, l'abbiamo sicuramente». Una figura paziente aspettava, ascoltando. «Tutti i maggiori giornali provinciali. Northern Whig, Cork Examiner, Enniscorthy Guardian, l'anno scorso, 1903. Da questa parte, prego. Evans, conducete il signore, se vuole seguire l'inser... Oh, mi permetta di... Da questa parte, prego, signore». Chiacchierone, zelante, fece strada verso tutti i giornali provinciali, seguito alle calcagna frettolose da una scura figura inchinata. La porta si chiuse. Il giudeo! Gridò Buck Mulligan. Saltò su e ghermì il biglietto da visita. Come si chiama? Mosè Levi Bloom. Continuò come mitraglia. Geova, esattore di prepuzzi, non è più. L'ho trovato al museo mentre andavo a salutare Afrodite nata dalla spuma, la bocca greca che non si è mai contorta nella preghiera. Ogni giorno dobbiamo renderle omaggio. Oh, vita della vita, le tue labbra infiammano. D'un tratto si voltò verso Steven. Lui ti conosce, conosce il tuo vecchio. Oh, ho paura che sia più greco dei greci. I suoi pallidi occhi di Galileo le si posavano sul solco mesiale. Venere Callipigia. Oh, il rombo di quei lombi, il dio inseguendo la fanciulla ascosa. Vorremmo sentire ancora, decise John Eglinton con l'approvazione di Mr. Best. Cominciamo a interessarci della signora S. Finora avevamo pensato a lei, seppur era mai accaduto, come una paziente Griselda, una Penelope tutta casa. Antistene, allievo di Gorgia, disse Steven, tolse la palma della bellezza alla gallinella del sire Menelao. Elena argiva, la lignea cavalla di Troia in cui dormirono una ventina di eroi, e la diede alla povera Penelope. 20 anni visse a Londra e per una parte di quel tempo percepì uno stipendio pari a quello del Lord Cancelliere d'Irlanda. La sua vita fu ricca, la sua arte, più che l'arte del feudalesimo, come l'ha chiamata Walt Whitman, è l'arte del rigurgito. Pasticci d'aringhe, caraffe verdi di vin secco, salse al miele, confetture di rose, marzapane, piccioni ripieni, canditi di eringo. Sir Walter Raleigh, quando l'arrestarono, aveva su di sé 500.000 di franchi, compreso un corsetto fantasia. L'usuraia Elisa Tudor aveva abbastanza biancheria intima da competere con la femmina di Saba. 20 anni si gingillò tra l'amore coniugale con le sue caste gioie e l'amore puttanesco e i suoi turpi piaceri. Conoscete benissimo l'aneddoto di Manningham sulla moglie del bravo mercante che aveva invitato Dick Burbage al suo letto dopo averlo visto in Riccardo III e come Shakespeare, avendo rigliato, senza far ulterior rumore per nulla, prese la vacca per le corna e quando Burbage venne a bussare al portone rispose di tra le coperte del cappone: «Guglielmo il Conquistatore è venuto prima di Riccardo III!» E l'allegra damina, la signora Fitton, monta e grida: «Oh!» E il suo caro tesoruccio: «Lady Penelope Rich, una donna di qualità e adatta ad un attore. E le troiette del lungo fiume, un penny a seduta. Cour de la reine. Encore 20 sous. Nous ferons de petites cochonneries, minette, tu veux?» Il fiorfiore della bella società. E Sir William Davenant, di madre oxoniense, con la sua coppa di vin delle Canarie per il primo canarino che si presenta. Buck Mulligan, i pii occhi alzati al cielo, pregava: «Beata Margherita Maria tutti i galli!» E la figlia d'Arrigo dalle 6 mogli, e altre amiche delle tenute circostanti, come canta Lon Tennyson, poeta gentiluomo. Ma tutti questi 20 anni, che cosa credete facesse la povera Penelope a Stratford, dietro le vetrate multifore? Fai e fai. Cosa fatta? Nel roseto di Gerard, botanico, a Fetter Lane, egli passeggia, grigio castano. Una campanula azzurra come le vene di lei. Palpebre di giunone, violette. Egli passeggia. Una vita è tutto. Un corpo. Fai, ma fai, lontano, in mezzo a un tanfo di lussuria e di bruttura, mani si posano sul candore. Buck Mulligan batté un colpo secco sul tavolo di John Eglinton. «Che sospettate?» disse con aria di sfida. «Poniamo che egli sia l'amante respinto dei sonetti. Non c'è uno senza due in queste cose. Ma la civetta di corte lo respinse per un lord, l'amore suo diletto. Amore che non osa dire il proprio nome. Da quel buon inglese che era, voi dite?» interloquì John Robusto Eglinton. «Egli amò un lord. Vecchio muro dove sfrecciano le lucertole come lampi. A Charenton le osservavo.» «Così pare», disse Stephen. Quando vuol fare per lui e per altri singoli ventri non arati il santo ufficio che uno stalliere fa per lo stallone. Forse, come Socrate, aveva una levatrice per madre, come aveva una bisbetica per moglie. Ma lei, l'allegra donnina, non ruppe il voto maritale. Due azioni avvelenano lo spirito dello spettro: un voto violato e uno zotico duro di mente a cui essa ha concesso i suoi favori, fratello del defunto marito. La dolce Anne, presumo, era di sangue caldo. Non c'è uno senza due nell'amore. Steven si voltò vivacemente sulla sedia. Sta a voi e non a me provarlo, disse accigliato. Se negate che nella quinta scena dell'Amleto egli l'abbia bollata d'infamia, ditemi perché non va menzione di lei per tutti i 34 anni passati dal giorno in cui essa lo sposò al giorno in cui lo seppellì. Tutte quelle donne seppellirono i loro uomini: Mary il suo buon John, Anne il povero caro William quando le morì, furioso di andarsene per primo, Joan i suoi quattro fratelli, Judith suo marito e tutti i suoi figli, Susan, anche suo marito, mentre la figlia di Susan, Elizabeth, per usare le parole del nonnino, sposò il suo secondo, avendo ucciso il primo. Oh, sì, si parla di lei. Negli anni in cui egli viveva sontuosamente nella Londra regale, lei, per pagare un debito, dovette farsi prestare 40 scellini da un pastore di suo padre. Allora, spiegatemi, spiegatemi anche il canto del cigno in cui l'ha consegnata ai posteri. Affrontò il loro silenzio.